Come ti chiami? Anna Zoller. Quanti anni hai? 90. Da quanto tempo vivi a Lizzana? Da 80 anni. Qual è il tuo lavoro? Casalinga. Cosa ne pensi di Lizzana? Mi è sempre piaciuto. Non sono nata qua, no, però sono venuta a Lizzana, e a Lizzana sono rimasta perché era un paese che mi piaceva, ho messo le radici qua. Come mai è arrivata ad abitare a Lizzana? Da quello che ho capito è arrivata 10 anni a Lizzana. Sì, sono nativa di Alla io. E, tempo di guerra, siamo scappati, siamo venuti a Lizzana. E vi interessa sapere perché è scappata questa signora? Sì. Perché c'erano i bombardamenti e siamo scappate. Difatti la mia casa, e una settimana dopo che eravamo qua a Lizzana, è andata per aria.